Le strade della comunicazione. Cinema, spettacolo e new media. Un mondo che più di altri offre oggi nuove opportunità di lavoro in un contesto fatto d'espressione creativa, ma anche di competenze tecniche e produttive. Il mercato dell'intrattenimento è in forte crescita e offre nuove possibilità di lavoro. Ecco la professione di cui parliamo oggi. Soggettisti e sceneggiatori per cinema e TV. Lo sceneggiatore è il responsabile del contenuto di un prodotto cinematografico o di una fiction televisiva. È di fatto uno scrittore, capace di sviluppare il soggetto, cioè lo schema narrativo che raccoglie i personaggi, gli intrecci e gli snodi della storia, arricchendo il racconto fino ad arrivare alla sceneggiatura vera e propria. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in televisione, cinema e new media dell'Università Yulm. www.yulm.it